Oh Marco, guarda sto sito. Dai, dai, dobbiamo registrare. No, aspetta, guarda sti manga. Già, sono il primogenito. Postumi di una stronza mixtape. Boombox, oh. Come a fare sogni. Già da bambina avevo gli occhi da teppista. Bevevo pera, poi pamper in pista. Faccia in vista, per le gruppi iscritte alla mia finta lista. Soddisfatto, rimborsate, sono un cazzo di affarista. Mista in mano, giro a Fossano, felpa che spicca. Piazzetta delle uova alle 9 con la mia cricca. Cicca in bocca come al solito, con gusto alcolico. Minchia, piacciolla tipo Truzzo di famiglia ricca. Stringo compromessi con ragazzi depressi e repressi. Anche volessi toglierci sta roba non ci riesci. Che cazzo pensi, se sti firmate non esci, perché se becchi la notte in giro sonni. Sono rumori molesti. Senti, ti do il perché di queste menti deviate. Il mio dossier l'hanno vietato e le mie pagine bruciate. Spingi in diffusione come il codice da Vinci. In distorsione il microfono in mano e tu che cazzo strina. Titolo primo di un fallimento garantito. Quindi privo di inibizione sul micro. Cico già da un po' che ho la talpa in casa come Lupin con Margot. Ed ho la fissa per i sexy manga. Capitolo primo di un fallimento garantito. Quindi privo di inibizione sul micro. Cico già da un po' che ho la talpa in casa come Lupin con Margot. Ed ho la fissa per i sexy manga. Tocca al primogenito col primo gemito. Chiede al mio medico, c'ho il gene dello schizofrenico. Salgo sul palco e degenero se non bevo quando medito. Io in quest'ambiente non ho credito, sto qua perché lo merito. Faccio come mi pare, quanto mi pare. Chiudo pare su cartine varie, si cambia modo di fare. Compare, aumenti l'auditel su programmi per non udenti. Io investo con l'auditel se nel posto non ci rispetti. Enti locali che ci credono criminali, pari ai vicini di erba. Se chiudiamo erba fra le mani, merda. Lo stesso tipo che cerchi la notte per i viali. Resto sottoterra come topi e cantieri navali. Siamo uguali con la differenza che cerco ricompensa nei locali. Faccio differenza, tu fai referenza agli sbirri locali. Quanto vali se sputtani dietro i più grandi di te. Capitolo primo di un fallimento garantito. Quindi privo di inibizione sul micro. Cico già da un po' che ho la talpa in casa come Lupin con Margot. Ed ho la fissa per i sexy manga. Capitolo primo di un fallimento garantito. Quindi privo di inibizione sul micro. Cico già da un po' che ho la talpa in casa come Lupin con Margot. Ed ho la fissa per i sexy manga.